Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Ieri sono stato lungamente vilipeso da un ascoltatore tramite Facebook, quindi per via grafica, che è molto meno dolorosa che la via verbale, e mi è stato detto: Nicoletti, non ti azzardare a occuparti dei problemi civili, dell'impegno, non è affar tuo. Vulgata, continua a dir cazzata alla radio e lascia che noi ci occupiamo dei grandi problemi. Tutto perché avevo semplicemente accennato che trovavo una vigliaccata dare un cazzotto in faccia a Capezzone, che è un uomo mitissimo, capito? Poi uno può anche non essere d'accordo con quello che dice, ma questo non giustifica il cazzotto. Siccome vedevo una grande levata di scudi, grande ilarità, doppi sensi, ah, gli ho dato bello, hanno dato cazzotto, l'hanno pestato, porta fortuna, queste ignominie, ho provato a dire, mi sembrava un po' ridicolo fare l'apoteosi del cazzottatore di un ragazzo per strada che non farebbe male a una mosca, poi inveri contro di lui quanto vuoi. Beh, questo è stato subito millantato con una sorta di impegno civile. L'impegno civile presuppone probabilmente delle qualità che io non ho, e sono felice di non averle, benissimo, fa parte comunque dell'equazione esistenziale che ho scelto di perseguire. Ma cosa significa avere un impegno civile? Significa avere un senso altruistico della socialità. Ma bisogna quindi avere a cuore i problemi della collettività, non essere egoisti. E quindi io non sono una persona probabilmente che si rende conto in che momento terribile stiamo vivendo in questo momento, la tragedia che stiamo attraversando, che la gente è giustamente arrabbiata, quindi fa bene a dare i cazzotti, che non ci si può aspettare diversamente la gente dia i cazzotti. Quindi bisogna che io lasci alle persone che hanno questo afflato altruistico, questo senso civile e questa passionale e disinteressata affezione per la collettività, l'impegno civile. Quindi io questa mattina, nel mio piccolo, modestamente, per la detestabile maniera che ho di vedere il mondo, farò l'elogio del chi se ne frega. C'era una volta un regno, il vostro regno, in cui voi eravate il re. E finché le cose stavano così, tutto andava decisamente bene. Per esempio, c'è stato un tempo in cui potevate svegliarvi nel cuore della notte e strillare con tutte le forze. E poi arrivava mammina con un gran sorriso stampato sulle labbra e vi sussurrava qualcosa tipo «Il mio cucciolotto ha fame? È arrivata l'ora della pappa?» Come se fosse, e per la verità lo era, la cosa più naturale del mondo. Sì, era. Provate a farlo adesso. E che dire di quando al pranzo di Natale, con il parentado al gran completo, voi piccoli inconsapevoli re, dopo la consueta poppata, facevate il ruttino. Ovviamente ricevendo l'approvazione e il plauso dei commensali presenti, tutti là ad accogliere con smaglianti sorrisi e divertita tenerezza l'avvenuto, atteso ruttino. Eravate il re. Liberi di essere voi stessi, qualsiasi cosa facevate era sempre ben accolta. Nessuno neanche si sognava di dirvi di comportarvi diversamente. Non esisteva un modello da seguire. Bene, questa favola è durata poco. Che questa favola sia durata poco, io me ne sono accorto più o meno all'età di 6-7 anni. Ma evidentemente sono circondato da persone. Gran parte dell'umanità che frequentiamo ancora vive in questa meravigliosa illusione che ci sia un mondo di persone e che tremino e pullulino amore pronto a riversarlo verso la nostra persona. E noi stessi non possiamo che vivere al centro di questa grande ola amorosa, di questo grande mondo affettivo in cui tutti siamo legati da vincoli profondi di riconoscenza, di amore disinteressato, di voglia che precede ogni desiderio di fare qualcosa per gli altri. Ma le cose non stanno esattamente così. Che le cose non stiano esattamente così, questa mattina ci aiuta a capirlo Elena Orlandi. Elena Orlandi, buongiorno. Buongiorno. Life trainer, che sì, sarebbe un po' cos'è, come il maestro da nascimento, una maestra di vita. Cosa significa life trainer? Significa aiutare le persone in un momento di particolare difficoltà nella quale vivono le relazioni col mondo, a provare a vedere attraverso gli occhi di un'altra persona e quindi rendersi conto che esiste un altro modo di vedere. E in quel modo di vedere poi deve saltare fuori il proprio, chiaramente. Ecco, mi sembra che la formula risolutiva è riassumibile in una fulminante, drastica ma espressiva frase, licenza di chi se ne frega, sia proprio quella di occuparsi un po' meno di quello che il mondo vorrebbe pensare di noi. Lei ha scritto un libro, Licenza del chi se ne frega, guida pratica per onesti egoisti, editore De Agostini. Quindi l'egoista, già sappiamo subito dalla copertina del suo libro che è onesto. Quindi chi onestamente ammette il suo egoismo, impugna la bandiera dell'oltraggio a ogni ipocrita e falso altruismo come maniera per sentirsi bravi, puri, dalla parte giusta, impregnati fino alla radice di impegno civile, in fondo è una onesta affermazione di esistenza. Direi proprio di sì, nel senso che io in realtà nel mio libro non predico la forma dell'egoismo per tutta la vita, io dico che è necessario passarci attraverso per riuscire a essere se stessi, altrimenti si è quello che gli altri vogliono, si aspettano che noi siamo. E questo crea un sacco di infelicità, basta guardarsi intorno, quindi... Quindi da quella situazione di principino sul pisello che abbiamo descritto, tratta dal suo libro, del bambino che sente che il mondo sta intorno a lui, partecipa, ogni volta che fa la cacchina tutti corrono ad adorarla, che bello, che miracolo, cosa meravigliosa. Poi si accorge a un certo punto che in realtà tutto questo ha un prezzo, e il prezzo è che noi dobbiamo essere quello che gli altri vogliono. Se noi non ci comportiamo bene, non siamo dei bravi bambini, se noi non mangiamo la pappa, non siamo buoni, facciamo piangere i genitori, o facciamo piangere la Madonnina, o facciamo piangere i bambini africani che non ci hanno da mangiare, via dicendo. Ecco, si comincia così e si finisce di camminare raso terra o lungo i muri nascosti nella propria ombra per paura che il mondo ci giudichi. Esattamente, questa è la fine che si rischia di fare, nel senso che poi un bambino dipende da noi, è in una condizione di assoluta vulnerabilità e quindi tutto quello che gli buttiamo addosso lui se lo prende. Ma dal momento in cui cresciamo, diventiamo adulti, ci confrontiamo con un mondo e comprendiamo che abbiamo a disposizione dei mezzi, è giusto che ne usufruiamo per spostarci e smettere di prenderci addosso tutte le frustrazioni altrui. Allora, 800 24 00 24. Fino a questo momento voi potrete pensare che il nostro è un banale trattare di quella materia, per cui gran parte delle persone che ascoltano, ma quelle che circondano in questo momento la mia persona, la radio, danno una parte cospicua del loro stipendio a dei terapisti, psicanalisti, psicologi, aiuti per la vita, che per un tempo indeterminato, a volte per 10 anni, amiche, io sono da 20 anni che sto in analisi, comincio a capire qualcosa di me stessa, comincio a farmi strada nel buio. Ecco, per subito scansare il dubbio che di questo stiamo parlando, vi facciamo sentire subito la prima delle teorie tratte dal manuale di Elena Orlandi, che dovrebbe in qualche maniera farvi ravvedere su questa sorta di banale e fuorviante altruismo di cui dovremmo essere intrisi e quale può essere una maniera per uscirne in maniera veloce. Immaginiamo un palazzo che rappresenta il vostro regno, con tanti balconcini qua e là che rappresentano gli abitanti del regno. Su ogni balconcino avete posto gli affetti e le persone della vostra vita. Nel momento in cui occupate il balconcino più alto del palazzo, va tutto bene. Siete nella condizione di dare semplicemente per gravità, il che significa, come già detto, nessuna fatica. Al massimo vi viene richiesto un minimo di impegno. Se invece siete di quelli che si sentono in colpa ed egoisti a occupare il primo posto e quindi vi posizionate sul balconcino più basso, allora tutto si complica. 800 24 00 24. Mettetevi anche voi per un attimo sul balconcino. Finché siete voi a fare la pipì in testa a quelli che stanno sotto, va tutto bene, vi sentite Dio. Ma se per qualunque ragione, come accadeva nel racconto di Buzzati, da questa grande clinica del benessere scendete via via verso i piani inferiori, vi renderete conto che cominciate a entrare nei gironi infernali di quelli che debbono qualcosa al proprio prossimo. Incontrate un'amica che fa un commento ironico sul vostro abbigliamento. data la vostra bassa autostima, vi sentite offesi. In questo caso il commento parte dall'amica che voi avete posto sul balconcino più alto e arriva a voi, e in un momento di distrazione potrebbe colpirvi e ferirvi, nonostante non sia il commento in sé la vera causa della ferita. Ecco la chiave. Il problema non è il commento, quindi nel commento non c'è nemmeno la soluzione. Il problema sta in quel voi avete posto, pertanto nel dove collocate le persone che fanno parte della vostra vita, dai familiari all'amico, al semplice conoscente, fino al perfetto sconosciuto. Quanto è vero questo, Elena Orlandi? Io adesso, sentendo la teoria della discesa dal balconcino privilegiato, ricordo, un ricordo abbastanza fresco, che maturai un odio profondo, irrazionale, ma selvaggio e vigliacco verso una persona amica, semplicemente perché un giorno incontrandomi vide un gileino verde che avevo tirato fuori da qualche armadio, dice: oh guarda, c'è un gileino da vecchio, da umarella anzi. Rimasi feritissimo, in fondo non c'era niente di male, quel gilet che poi è stato esorcizzato, bruciato, calpestato, buttato nel tritacarne, via dicendo, è stata la ragione di un profondo malessere e di un senso di odio. Cosa significa questo? Significa che avevi bisogno di lavorare un po' sulla tua autostima, nel senso che... Queste sono parole che poi mi fanno venire la pelle d'oca, perché le dicono tutte. Se io vado adesso, che ne so, al supermercato qua sotto a comprarmi un panino, la commessa, quando pago, mi dice: lei deve lavorare sulla sua autostima. Non sono termini un po' esauriti dall'abuso che ne è stato fatto? Che vuol dire lavorare sull'autostima? Io capisco che sia stato fatto anche un uso scorretto o un abuso, come dici tu. Il punto è che comunque rimangono dei termini che hanno significato, e al di là del fatto, anche la parola egoismo è stata massacrata, rovesciata. Cioè uno gli può rodere l'anima che pensa di essere splendido, ti puntano il dito, è come avere il calzino bucato in un momento di afflato amoroso, ti togli le scarpe e il calzino bucato, meglio morire in quel momento. Ma non è colpa nostra, non è l'autostima. Dipende, nel senso... Sì, invece sì che è una questione di autostima, perché noi dobbiamo accettare il fatto di essere persone imperfette, okay? Esseri imperfetti, e prenderla con ironia, che è un modo alto, elevato e leggero di prendere la vita. Quindi, ma noi vorremmo essere Clark Kent, vorremmo essere Clark Kent con sotto il costume da Superman. Questa capito, è la natura umana. Il problema. Noi non siamo Superman, e tutte le volte che inseguiamo quel mito, che è un mito, un ideale, non esiste sul pianeta Terra, allora lì parte la nostra sofferenza, perché non siamo Superman. E quindi il prossimo diventa come la criptonite verde, che è la materia che rende Superman un essere imbelle. Sì, non ho capito cosa diventa. La Krypton Belle, essendo una fanciulla, non avrà mai letto i fumetti di Superman. Superman viene da un pianeta Krypton. Anche, sì, certo. Sì. Il pianeta Krypton, sì. C'era la Kryptonite verde, che è una materia che l'unica cosa al mondo che rende debole Superman è la Kryptonite verde. Infatti i suoi nemici, Luthor e via dicendo, hanno questa Kryptonite verde. Quando lui sta per attaccarli, tirano fuori il sassetto che fa la luce verde e lui improvvisamente diventa debolissimo con un pugno, sì, come certo, lo si butta per terra. Certo. Quindi diciamo esatto, il punto debole è come l'autostima su cui bisogna lavorare equivale alla criptonite verde per Superman. È la materia che improvvisamente, come il mio gilet verde, ci rende imbelli. Sentiamo Alberto. Alberto, buongiorno. Ci parli della sua criptonite, cos'è che la rende imbelle? Quindi dovrebbe fregarsene. Tutti possiamo essere vittime della criptonite. Il discorso è che non si può vivere la vita in base al giudizio degli altri, anche se vivendo in società bisogna appunto sottostare a delle regole. Però se siamo sinceri, Alberto, noi diciamo non ce ne freghiamo, diamo consigli a tutti ma fregatene, però dentro di noi è molto difficile fregarsene, c'è quella sorta di lancinante rovello che fa sì che se apparentemente ce ne freghiamo ci rimane dietro un tourbillon insopportabile. Logicamente la corazza a volte può essere scalfita e addirittura bucata, questo sicuramente. In giovane età si può fregarsene un po' di tutto e di tutti, crescendo ci si accorge che nella vita le scelte magari anche che si possono essere fatte da quando magari si era più giovani ti si possono anche ritorcere contro, però bisogna cercare anche di vivere tranquillamente. Ma lei diventa menefreghista invecchiando, oppure lo è da giovane e poi la maturità le dà un senso di altruismo? Lo ero, lo ero da giovanissimo, non sono vecchio, ho 37 anni sicuramente, lo ero da giovanissimo, lo sono un po' meno da adulto, da uomo maturo, però cerco di continuare a vivere in questa diciamo, con questo karma, diciamo. ci stiamo arrivando. Paola, sentiamo Paola. Buongiorno. Lei non è mai stata sul piano alto del balconcino? Assolutamente no, mai, e non lo farò mai, perché io la mia personalità, il mio carattere, infatti non ho più amiche, perché comunque sono sempre rimasta delle mie idee, sono sempre rimasta ligia alle mie idee, coerente. Quindi lei sta nella guardiola del portiere in quel palazzo? Vede passare le persone e dice dica. No, voglio dire, ma perché uno deve comunque essere messo in una posizione di dire oddio, cosa ho fatto, cosa come mi sono comportato? Se no sembra quelle trasmissioni teoriche fatte con le giovani psicanalizzate. Entriamo più nel problema. Cosa vuol dire lei? Qual è il suo problema? No, il mio problema si sente giudicata, è che io comunque... sente giudicata e quindi ci sta male, non riesce a fregarsene del mondo. No, io voglio essere giudicata, però alla fine io non è che mi pongo il problema di dire ok, mi hai giudicato male, allora mi devo, ma se io gli dicessi, redimermi, ma perché? Perché sono sempre io che sbaglio. Ma se io gli dicessi, che ne so, la guardo e dico perché ti metti i tacchi che non ci sai camminare, lei ci rimane male. Ma chi se ne frega? Chi se ne frega, no? Lei ci pensa. Sì, perché imparerò a camminare meglio, ma non è che questo mi dice allora non mi metto più i tacchi, posso correggermi. Ma perché lei non gliene importa nulla, giustamente il mio giudizio, ma se fosse una persona a cui le tiene molto, a cui sente giudicata, non si sente abbacchiata da questo banalissimo giudizio. Ma chi giudizio. Se ne frega, no? Va bene, lei è giusta, sono contenta. Io comunque sono dell'idea che uno deve, insomma, deve vivere la propria vita secondo... Mi dica un suo gesto di puro egoismo, di puro piacevole e privo di sensi di colpa, atto di egoismo. In che senso, mi scusi? Se lei dice questo dovrebbe essere egoista, felicemente egoista come valore positivo e come conquista. Mi dica cosa lei fa di egoista. E mi dica una volta che se ne è fregata in maniera splendida e radiosa di qualcuno che magari poteva crearle dei problemi, dei sensi di colpa. Ma non so, ad esempio una mia figlia a una festa è andata a una festa della sua grande amica, dopodiché io come si dice, quando è stato il giorno che l'amica doveva venire a casa di mia figlia, non è venuta. E allora io ho detto a mia figlia, ma fregatene di questa amica, cioè lei non è un'amica. Eh sì, facile essere, è come si dice, come essere gay con di dietro degli altri. Il problema era di sua figlia, mica era suo, scusi. No, vabbè, il problema era anche la mia. Ma si figura, ma lei che gliene importa? La bambina avrà sofferto tanto che l'amichetta è venuta a casa sua. È facile così, cioè... c'ha ragione Ricucci in questo caso. Sì. Angelo. Buongiorno. Non faccia come la sua collega ascoltatrice che bleffa, è troppo facile. No, io non bleffo. Mi parli del suo egoismo vero, un bel atto di vigliacco egoismo. Ma io non, invece, se torniamo al paragone che ha fatto lei del balcone, io ritengo che non ci debba essere, e questo è quello che cerco di fare io, gente che sta sopra il balcone e gente che sta sotto. Secondo no, però la vita è fatta a balconi, no, mi scusi. Sì, io sto sul mio di balcone. E mi piace vedere o pensare che ci siano altre persone che stanno sugli altri balconi. Ma mica la vita è villetta a schiera, la vita è un grattacielo, c'è cioè chi sta sopra e chi sta sotto. Allora io sto messo abbastanza sopra. Sta sopra, è vero, c'ha fortuna. Perfetto. Lei sta sopra e quindi la fa in testa a quelli che stanno sotto, spero. Sì, beh, per forza. E lo dica. Cioè, in questo. E questo dà un grande senso di onnipotenza e piacevolezza. No, assolutamente. Cioè, è un egoista pentito. No, mai, assolutamente mai. No, mi dica un atto di egoismo, chi ha fatto soffrire senza provare minimamente un senso di colpa? Ma, per esempio, quando mi sono lasciato dalla mia ex moglie. Oh, questo è un bel atto di egoismo. Ecco, si è lasciato la moglie, non si è lasciato commuovere da quello sguardo da cane bastonato, da gatta abbandonata, dagli anni passati insieme. Ha detto, guarda, mi hai fatto due scatole così, addio. Vero. Senza strascio, per lei c'era un'altra comunque. Finalmente. E non aveva nessun senso di colpa per questo. Ma no, non c'è più. Perché molti si marciano, poverina, cosa ho fatto? E torno un attimo da lei, poi torno dall'altra, dico all'altra perché l'ho fatto, dammi del tempo. No, lei a un certo punto si è gonfiato le scatole di sua moglie, l'ha mollata e non ha avuto nessuna pietà. E sta bene. Sì. Perfetta, questa è la case history che cercavamo. Eleanor Landi, ci siamo arrivati finalmente al felice egoista? Sì, qualcosa del genere, però devo dire che è stato un po' stravolto il concetto base. Questo è il mio forte, stravolgere sempre le idee altrui e farle mie. Sì, ma questa è la mia forma di egoismo. Proprio del vero significato, però. Allora, tra essere licenziati di chi se ne frega e essere dei menefreghisti c'è una sostanziale differenza. Cioè, in alto al grattacielo, sul balconcino alto, ci arrivi quando hai capito. E quando hai capito... E chi ci nasce, scusi? Non nemmeno di... No, no, ci nasciamo tutti, perché nasciamo tutti nel regno dei beati, ma poi tutti andiamo giù e tutti possiamo risalire, tutti. No, io ho aggiunto soltanto alla sua teoria del balconcino la circostanza additiva di poter fare la pipì in testa a quelli che stanno sotto. Forse... Sì, ma non ti viene neanche più di farlo. No, è perché ancora sono uno stato infantile punto. Che mi divertirebbe molto, forse questo. Sì, questo può essere. Allora, il bambino infatti lo fa, si diverte un sacco e bisognerebbe anche lasciarglielo fare. Però dal momento in cui uno ha compreso, non ha più quell'interesse lì. Ci fermiamo allora soltanto un istante. Guardi, Elena Orlandi, devo dare la linea all'informazione della borsa, poi riprendiamo a parlare dello stravolgimento vigliacco della sua teoria, riportandola in termini concreti per quello che lei veramente voleva dire. A tra un istante. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Marcello, quando due persone si vogliono bene, tutto il resto non conta. Di che cosa vuoi aver paura? Di te, del tuo egoismo, dello squallore desolante dei tuoi ideali. Non lo vedi che quello che mi proponi è una vita da lombrico? Non sai parlare d'altro che di cucina e di camere da letto. Ma un uomo che accetta di vivere così, lo capisci? Che è un uomo finito? È veramente un verme! Io non ci credo a questo tuo amore aggressivo, vischioso, materno! Non lo voglio, non mi serve! Questo non è amore, è abbrutimento! Come te lo devo dire che non posso vivere così? Che non ci voglio più stare con te? Voglio star solo! Scendi da questa macchina! No! Sei una carogna, un vigliacco! Mi fai proprio una gran pena! Va bene, io ti faccio pena e tu mi fai schifo! Scendi! No, non me ne vado! Io sto... Elena Orlandi, autrice di Licenza di chi se ne frega, guida pratica per onesti egoisti. In questo fantastico dialogo fra Mastroianni e la sua donna, tratto dalla Dolce Vita, da quale parte si trova la giusta e radicale scoperta della gioia di fregarsene? Da parte di lui che finalmente si accorge di avere qualcosa da difendere, o da parte di lei che per tutta la durata del rapporto ha cercato in maniera avvolgente, materna e vischiosa di tenerselo sotto, come si tiene sotto il fuoco prima di staccargli la testa? Ma secondo me si sono fatti un favore a vicenda, perché in un dialogo così di amore non se ne vede neanche la traccia, francamente. Secondo me quando si parla di amore non c'è mai traccia, l'amore è inenarrabile e inesprimibile, quando si comincia a parlare è l'amore vero, è già da un'altra parte. Ma quando c'è si sente, come dire. Sì, sicuramente è una frase che ogni tanto fa piacere di sentirsi dire. Ma uno che passa da ti amo a mi fai pena o mi fai schifo, cioè va da un estremo all'altro, mi sembra un comportamento un po' infantile. Sì, lo sa perché? Perché il ti amo... C'è tutta una variabilità di mezzo, sì, no? Quindi... Sì, sì. Vedo che le domande che più ci fanno però riguardo all'egoismo, non so per quale ragione arcana o forse un po' me lo spiego, vertono tutte nella sfera sentimentale, amorosa, relazionale. Fregarsene degli altri significa fregarsene quando gli altri ti accannano, ti mollano, o quando gli altri sono apprensivi, avvolgenti. Perché il primo luogo, la prima arena di esercizio della meravigliosa e fantastica arte del chi se ne frega viene proprio nella relazione amorosa? Sì, avviene così per questa ragione, che nel primo piano del mio libro si spiega come noi nasciamo in quanto metà, quindi non siamo adulti in miniatura, siamo metà. E quella metà lì viene completata dall'apporto di 5 ingredienti fondamentali che ci danno i nostri genitori o chi si prende cura di noi. Dal momento in cui noi cresciamo, molliamo, ci stacchiamo da quel rapporto di dipendenza, stretta dipendenza dei genitori e in quanto metà, se non lavoriamo su quella metà per diventarne un intero, andiamo alla ricerca di altre metà. Ma qual è la metà che siamo? Solo quella che... sotto o quella sopra? No, solo per te. O a metà come il Visconte di Mezzato? Quella di lato. Ah, siamo a metà come il Visconte di Mezzato, cioè no, questo esatto, romanzo meraviglioso di Calvino. Esattamente, esatto. Quindi andando alla ricerca dell'altra metà, no? E fin tanto che andiamo alla ricerca dell'altra metà, non possiamo parlare né di amore, né di benessere, né di felicità, che però non è uno stato dell'essere, è solo un picco. Ma quindi spesso raggiungiamo la completezza quando ci illudiamo di aver trovato la parte combaciante, perché nella vita accade almeno 70 volte, quindi... Non esiste. Noi diventiamo un intero dal momento in cui ci chiudiamo nel bozzolo, lavoriamo su di noi e su chi siamo, su quello che non ci è stato fornito, quindi ci completiamo, ok? E poi, anche se sembra la fine di tutto, perché sembra che nessuno più ci voglia, nessuno, chiudendosi nel bozzolo, se ne esce farfalle però. Eh sì, ma tutto il tempo, quindi, che uno sta nel bozzolo, intanto passa il tempo, il tempo divora tutto. Passa il tempo, certo, però Albert Einstein ci ha dimostrato che il tempo non esiste, quindi perché farsene un cruccio, no? Eh sì, ma uno guarda allo specchio la mattina, vengono le rughe, le cose, dice mamma mia, ho perso tanto tempo nel bozzolo, ben voglia ritorna fuori. Beh, insomma, nel bozzolo uno non è che ci deve stare tutta una vita, la vita va vissuta. E quanto dura l'imbozzolamento mediamente? Perché io conosco, c'ho amici e amiche che ci stanno da 30 anni nel bozzolo. Vedo comprare belle villette allora ai loro analisti, ma loro stanno sempre lì. Sì, sì. No, io in questo sono molto controcorrente, nel senso che ritengo che la vita appunto vada vissuta e non discussa. Quindi una persona può venire da me, sistemiamo quelle due cose, poi prende e va e se la vive e trova il suo giusto equilibrio, ok? Poi c'è anche chi fa una scelta di vita diversa. Allora, il monaco, l'allievo che segue il monaco zen, ci sta tutta una vita a seguire quegli insegnamenti, ma quella è una scelta. Sì, ma perché per lui la vita è un veloce e fugace passaggio, la vita sta da un'altra parte, chiaro. Noi stiamo parlando per persone che sono, ahimè, limitate da un profondo immanentismo, in cui pensano che tutto ciò che può essere di gratificante appartenga a questa esistenza, l'altra è un atto di fede. Sentiamo Fausto. Fausto, buongiorno. Buongiorno. Sto ascoltando. Io? Pronto? Se ne frega lei? Sì, cioè, sento. No, se ne frega, che sento, capisco. Ma è uno che se ne frega. Chi se ne frega? Io ho 70 anni. Quando avevo 25 anni, nel 65, da esterno mi sono presentato alla maturità di ragioneria, perché siccome lavoravo alla contabilità fornitore delle innocenti, quindi ero uno studente lavoratore. Certo. E i compiti, le tracce del compito erano uno diverso dall'altro. Dietro di me all'ultimo banco, io ero al penultimo, c'era una ragazza. Dopo, una volta dettato la traccia del tema, questa ragazza si è messa a piangere e non riusciva a scrivere due cifre. Io non riuscivo a concentrarmi sul mio compito, quindi ho detto: che faccio? Io un lavoro ce l'ho già. Vediamo se posso aiutare questa ragazza. È caduta nella trappola dell'egoista, certo. Il suo compito, e io ho fatto tutto il compito di ragioneria. E a lei l'hanno segata, però. Il compito di ragioneria suo, ho cominciato a fare il mio. E il suo come è andato? Non ho finito, perché alle due bisognava consegnare, e quindi il compito della ragazza era belle finito. Il mio era a metà. Io sono stato rimandato in ragioneria. Ma almeno la ragazza poi diciamo, sono stato promosso. Scusi, Fausto. Un attimo solo, è egoista ma non sente. Un attimo. Fausto, dicevo, io capisco questo gesto e posso anche giustificarlo. Se poi è conseguita un'intima d'azione da parte della ragazza, poi la ragazza ha finito il compito, cosa ha fatto? Se l'ha salutata, no, se n'è andata. La ragazza ma poi l'ha salutata, arrivederci. Ha consegnato il compito. E se n'è andata. E se n'è andata. E non l'ha più vista. Io sono rimasto fino alle due a finire il mio compito, però non l'ho finito. Vabbè, ma questo tafazzismo cosa c'entra con il menefreghismo? Lei si è segato un'occasione per la maturità e nemmeno ha avuto in cambio favori, piacevolezze, compagnia da parte della ragazza. Cioè, gratuitamente l'ha fatto. Vabbè, lei è masochista, non è... vabbè, se n'è fregato. E no, non è se n'è fregato, scusi. La ragazza è una meravigliosa egoista, ha finto il pianto, ha commosso lei, ha fatto sì che lei fosse segato e lei fosse promossa. Lei è una vittima dell'egoismo altrui, quindi mediti su questa cosa alla sua età. Paolo? Sì, buongiorno. Scusi, Paolo? Sì, eccomi, mi sente, buongiorno. Sì, no, vediamo se riusciamo a ribilanciare la situazione, perché l'ascoltatore di prima, poveraccio, si è rovinato la vita per nulla. Io, sentendo la vostra trasmissione, invece ho deciso di riprendere una mia sana abitudine di egoismo. Mi faccio un esempio, cosa farà di egoista oggi? Oggi no, però il venerdì lo dedico solo a me stesso e non lavoro, vado, vabbè, la mattina ho una terapia di gruppo, poi faccio palestra. Quindi lei è già poi... schiavo di un gruppo di autocoscienza che manipola la sua coscienza come vuole. L'egoismo meno, sarebbe... No. Prenda calci nel sedere quelli del gruppo, quello sarebbe un bell'atto egoismo. No, l'egoismo sarebbe ritornare ad andare a pranzo con i miei amici, anche se ho contro un po' la moglie, visto che non... Ma lei è uno schiavo, scusi, dov'è l'egoismo? Lei deve... Tutte queste sono cose da azzerare. Allora, lei si sente in colpa verso la moglie se va con gli amici, va al gruppo di autocoscienza la mattina perché evidentemente, non so, le servirà qualcosa. Dov'è l'atto? L'atto egoismo sarebbe sconvolgere completamente il venerdì. Faccia esattamente quello che darebbe fastidio a tutti gli altri, secondo me. Eleanor Landi, vediamo se praticamente può aiutare questo nostro povero ascoltatore, così vittima dei desideri altrui. Per capire il metodo, ecco. Allora, dal momento in cui dice mi prendo il venerdì libero perché sano egoismo e quindi il venerdì non vado a lavorare e mi godo la giornata, bene. Allora, in quella giornata lì decidi quali sono le tue priorità e falle indipendentemente da tutti. Ma lui già le ha elencate, le stesse cose che fa tutta la settimana. Sì, le ha elencate, ma non indipendentemente da tutti, perché alcune cose non le fa perché altri non vogliono che le faccia. Allora, quindi continua a essere schiavo degli altri, non è egoista. Certo. Io so. Quindi, io suggerirei di mandare la moglie al gruppo di autocoscienza con gli amici, così intanto è impegnata, e poi fa quello che gli va di fare. Ma spesso sa qual è il problema, secondo me, Eleanor Landi? Che uno non ha alternative. Dice, vabbè, oggi azzero tutti i vincoli. E poi si guarda, vede una parete vuota e non sa che fare, non sa come riempire la giornata. Bisognerebbe avere sempre delle frecce nella propria faretra, pronte a essere scagliate. Tra un istante, dopo le informazioni del traffico. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Ebbene? Non dirmi ebbene, non c'è nessuno ebbene da dire, santo cielo! Lui si presenta tutti i giorni senza essere invitato e lo sai perché? Perché i prepotenti della sua scuola lo perseguitano e tu nemmeno te ne accorgi. Lo mandi in giro come fosse carne da macello, lo fanno a pezzi tutti i giorni, 24 ore al giorno! Stupida, impi del cavo! Credo che tu sia un po' troppo melodrammatico, Marcus... Era strano. Will aveva capito e mamma no. Doveva essere il contrario. Forse non hai mai avuto molti contatti con dei bambini prima. Beh, io sono stato un bambino, io sono andato a scuola e so la differenza fra quelli che non si sanno ambientare e quelli che sono semplicemente infelici, ma guarda! Ammettiamo che esista tutto un mondo per Marcus che io non capisco e invece miracolosamente tu sì. Allora, che intendi fare? Spiegamelo. Ma io non intendo fare niente, la cosa non mi riguarda. Oddio, sei un egoista bastardo. È quello che gli dico sempre, lui pensa solo a se stesso. Ma io sono da solo, ci sono soltanto io, penso solo a me stesso perché non c'è nessun altro. Sì, sì che c'è Marcus. Questo è Hugh Grant in About a Boy che litiga con... la madre, ragazza madre, che da sola alleva un figlio, però il figlio sta più volentieri con questo scapolone egoista, gioca con lui, passa il tempo con lui, completamente libero da questo perfettinismo figa di legnesco della madre che lo costringe in degli schemi che non gli appartengono, e capisce che lo sprazzo di libertà dell'uomo che vive solo può essere l'alimento e la salvezza per la sua tenera esistenza, e comincia questo difficile ma necessario processo di demolizione della madre. E Eleanor Landi, è necessario che a un certo punto uno cominci a demolire, anche se forse calchiamo, ripestiamo ancora di più nei luoghi comuni, però questo forse vale il caso di dirlo, questo corroborante, rassicurante vincolo che si ha con la famiglia d'origine per cominciare ad essere veramente egoisti. Cioè il primo atto di egoismo è l'uccisione, come dice appunto il Buddha, se incontri tuo padre e tua madre uccidili. Diciamo così che dal momento in cui io mi rendo conto che i miei genitori possono arrivare fino a un certo punto e io ho la responsabilità di procedere, no? Lungo la linea evolutiva e fare in modo che la mia generazione vada oltre quella precedente, chiaramente devo lasciarmeli alle spalle, devo fare questo atto. Questo non significa demolirli, significa accettarli per quello che sono. Quindi i miei genitori sono arrivati fino a un certo punto, li ringrazio, poi mi assumo la responsabilità io di costruire la mia vita, senza perdere tempo a demolire la loro, che è stata quella che è stata. Eh sì, ma di solito i genitori, noi stessi quando siamo genitori, ci comportiamo come quelli che cadono nelle sabbie mobili, con le dita dunche, protese verso la persona che sta sulla terraferma, perché vorrebbero comunque ancora essere tirati fuori o tirare dentro ancora lui. Sentiamo Maria Pia. Maria Pia. Buongiorno. Una gran bella egoista felice. Bella, felicissima. La cosa è nata... Bella non lo sappiamo, lo dice lei. No. Bell'egoismo, questo volevo dire. Beh, cosa fa di egoismo? Che tutti si vantano dell'egoismo. Mi dica un atto di concreto egoismo. Allora, guarda, più che egoismo, io quando da adolescente ho deciso di prendere la mia vita nelle mie mani. Mi sono detta, cos'è che voglio? Cioè, guardando nella mia famiglia, ecco, una cosa... concreti, atti concreti, non chiacchiere. Cosa ha fatto? Ho deciso, non ho mai desiderato figli e non ho mai avuto rimpianti. Questo è un discreto atto di egoismo, sì. Ecco, sono fidanzata da una vita, ma non ho nessuna voglia di sposarmi. Ho sempre detto al mio uomo, sono contenta di stare con te, ma l'unica persona senza la quale non potrei vivere si chiama Maria Pia. Beh, è chiaro, perché se muore Maria Pia comincia a putrefarsi anche lei, questo è chiaro, questo lo sa, è normale, ma ancora non sono atti di splendido egoismo, è una sorta di egocentrismo così banalotto, direi. Dov'è l'egoismo? Il fidanzato c'è, se lo tiene da anni, non se lo scrosta di torno per niente, lo tiene come lì, come un omino trastullo, quando vuole lo usa, poi lo rimette da parte, ma dov'è l'egoismo? Mica vero, perché è reciproco, perché anche lui ha deciso, diciamo, ci siamo incontrati decidendo la stessa cosa. Sì, non è vero egoismo. Andiamo avanti. Paolo, vediamo Paolo cosa ci può insegnare. Paolo, pronto? Finti egoisti finora, non c'è un vero sano egoista. Paolo, vediamo se ci illumina questa mattina. Pronto? Sì, l'ascolto. Salve, io volevo fare una domanda perché sempre nel rapporto di coppia, moglie e marito, se io sono egoista rischio di subire anche... per reazione contraria l'egoismo di mia moglie, quindi alla fine... E allora chi se ne frega? Qual è il problema? Facciamo un esempio, se io decido di uscire tutte le sere perché... La moglie, certo, è chiaro, è logico, e allora? No, se esce lei non posso uscire io magari, perché c'è... Ah, perché non c'avete la colf? Fregatene del bambino, che vi devo dire, datelo alla nonna, qual è il problema? Essere egoisti implica comunque una reazione. Lei deve vincere chi è più egoista. Se lei è più egoista di sua moglie, costringe la moglie a stare a casa. Se sua moglie è più egoista di lei, lei sta a casa a fare l'omino di casa e sua moglie esce. L'egoismo non c'è spazio per due egoisti nello stesso balconcino. Uno deve farla in testa all'altro. Vedetela fra voi, scusate. È una guerra. È certo che è una guerra. È perché pensa che sia facile essere egoisti. Chiaro che è una guerra. D'accordo. Ah, non lo sapeva. Vabbè, Maurizio. Ciao. Eccomi. Io sono l'egoista in famiglia. Sentiamo allora cosa fai, perché finora tutti finti egoisti. L'egoista condizionato, ma se sono egoista io, poi lo deve essere anche mia moglie. Allora no, siamo tutti buoni. Stiamo lì a guardarci in faccia, corromperci giorno per giorno. Uno deve essere egoista, deve esserlo veramente. Mette un chiavistello alla porta e lascia dentro il marito o la moglie a occuparsi dei figli e lui se ne va a godersi la vita. No. Sì, io infatti l'ho messo il chiavistello, ma purtroppo, nel senso che... Però purtroppo stava dentro, quello è il problema. Ho smesso di partecipare a tutte quelle cerimonie familiari orribili, giornate perse, battesimi, matrimoni, eccetera. Però sto vedendo una cosa, che più mi allontano da tutte queste cose e più vengo cercato. E il fatto che sono sempre assente, non ci sei nelle fotografie, non vieni mai, eccetera. Sta diventando pesante, quindi forse è meglio... dedicare quel giorno orribile lei è un egoista pentito, lei soffre la solitudine e l'egoista, ma è un meschino, scusi, non ha niente di egoista. È un finto egoista, non posso più essere. Non ce la fa, ceduto le anni. Ho goduto qualche anno e poi mi sa che... Quindi è già pronto a rimettersi schiavo nelle mani dei parenti, della moglie, delle suocere. Ho stato qualche anno felice e adesso devo tornare. Ma cos'è il senso di colpa che la costringe a tornare fra gli schiavi? È che per dirne una, c'ho mia nonna che comincia prima di un matrimonio, un mese prima, ti prego, stavolta vieni. Ma lei non può dire chi se ne frega nonna? Ho provato, ma insomma... E che succede? No, cosa succede? No, succede che invece di soffrire un giorno, ne soffro 30. Lei è schiavo allora, non c'è niente da fare. È irrimediabilmente schiavo. Si rassegni, lei starà sempre nella guardiola del portiere e la sua soddisfazione sarà dire dica quando passa qualcuno e gliela faranno tutti in testa. A domani. Melog 2.0. Alors tous deux, on est partis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.